sento a Walter di Amore, che glielo dico a vedere che differenza c'è di cambio di moneta tra l'euro e quella, capito? Comunque molto bassa, tu immaginati che uno stipendio in Romania non supera le 300 euro nostre, capito? Io ti sento magnificamente bene, Gianni.